5 sempre. No, ma attento, briciola, su che andiamo, su. Ciucucciù. Ehi, Pomponio Magone. Beh, come andiamo? Tutto a posto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ehi, prova, Pompo, prova. Caspita, ma la cosa allucinante, cara. Cosa c'hai? Io non c'ho niente, sono a posto, grazie a Dio. Ricca, ci mancherebbe. Meno male che sei a posto. E tu dove sei, fra? In campagna sei? Sì, in campagna sono, mi ascolti, sì. Sì, abbastanza. Andare. Io sono a casa per il momento, dopodiché adesso trasferisco l'apparato che ci hanno comprato, hai capito? Il mio. Quindi a un certo punto usano quello, non lo so, e quindi sono tranquillo. Ma è meglio così. Non va bene, prendo 70 cazzo, non va bene, 270 euro, è regalato, microfono, apparato, quindi non va bene. E ti ha parecchiato 140, eh? Vabbè, ha fatto così e basta, è venuto uno e si è ritirato, l'ha provato a casa e immediatamente si è fatto via, cioè non si è fatto via perché ce l'ho ancora io in questo momento, ma comunque sia se lo porta via. Ma cosa è che è venduto? Il 140? Sì, è il 140, sì, bravo. Va bene, fatto bene, tanto però per questa legge non c'è una mazza. Vabbè, allora ti dico io. Già mi hai comprato un altro apparato, mi comprerò adesso vediamo un pochettino. Mi hanno fatto un lavoro, quindi piano piano mi prenderò un apparato come si deve. Hai capito? Un contante va a far culo. Non devo fare cazzo con queste cose. Seconda mano. Adesso vediamo un pochettino. Ho trovato una persona che in pratica lavoravo con lui, mi chiede a lavorare e lo prendo in contatto, va a far cuffia. Tutto è stare a girare intorno, cazzo. Oh, mamma mia, cazzo. No, compare più niente, che non ne vale la pena, sono soldi buttati. Non ho capito niente, no. Cos'hai detto? Di non comprare una mazza, che sono soldi buttati, non comprare nulla. Allora, piano la mazza e spaccare tutto in terra. Grazie. Mi sa che lo è, a me. Va bene, vai, ti lascio che sto uscendo, vai. Ci sentiamo domani al limite, se non sto lavorando, ok, ci sentiamo, ciao. Attenzione sul canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna, cambio. Già ascoltiamo noi, già, è lì, ascolta. Ebbene, sta lì. E allora, cosa mi dice? Cosa ti dico? In questi giorni non c'ero perché stavo andando a vedere lo spettacolo che stavano facendo agli punti, alla festa. E ho visto l'azienda, diversi gruppi, eccetera. E c'era bello, là, e mi sono divertito. Beato te, io non ci posso andare, che cazzo, secondo dove trovi posto per la macchina, c'è da camminare e a me mi viene male. E io sono anche caduto, ho messo male il piede nel bordo del marciapiede e sono riuscito a braccare e andare a prendere la macchina. È vero. E vabbè, però io già cammino, capito? Adesso camminare a me non mi dà nessun problema. E che ho messo male il piede nel bordo del marciapiede, era tutto dissestato, mi ha fatto fare la storta. Però dai, un po' già mi sono divertito. Poi ieri ero a pranzo a casa di un amico che ha la casa proprio di fronte dove fanno, dove va a pranzo a cena, e a casa di un amico che c'ha di fronte proprio la casa dove fanno lo spettacolo, e siamo andati a vedere anche lì. Ma chi era embriaco? Chi era embriaco? Non ha giubito nulla, nemmeno un cuccio qua. Così a Giavalli. Tutti questi pizzi. Luca, io lo dico, lo faccio. Gli conosco 250 bizzini che sono tutti da muccioli, va, a chi dizione così. E studi in mezzo, così. Allora, io sono cominciato prima, sono patrignato. Cavagava. Ma non ci vanno solo i tuoi sicili, oppure anche gli alcolizzati? Ah, boh, non lo so, non lo so già, ciao. Comunque, dai, fatte, fatte. Sì, fatte, fatte. E chi ci tu rimani, male di male. Io sono diabetico, lo sai. Esaventa. Fai da bravo. Ah, vuoi dire che non è una scusa buona, vabbè. No, non è una scusa. Addirittura io, anche se ho la precedenza, quando vado a fare le analisi non ne tolgo mai il tesserino, come sono diabetico o qualche foglio, niente. Faccio la fila e mica di mondo, avanti Natale. E riprendete voi che sto stampando le medicine che mi sono arrivate dalla dottoressa. Perché le stampi? Io vado col cellulare, gliele faccio vedere e me le spara. Luca, flippa, da quando ce l'hai quella roba? Stamattina avevo la visita. E ti ha convinto, così? Sì, agitata attacca. Io devo usare sempre la mano con la tecnologia. Vabbè, e se no devi stare fuggendo ogni volta, è un casino. E poi non le puoi fare quanto ne vuoi. Perché se tu vuoi farlo prima e dopo, non lo puoi fare perché non ti bastano gli stick. Già me l'ha detto, sono contatti. Già me l'ha detto. Mi alzo da su un altro. La chiudo in sala e lungo sul lettore era in camera da letto. E ha suonato che non prendeva il segnale. Non puoi butti, eh. No, io non me ne ho messo allarmi, non mi butti. Ma le voleva far mettere, ma ho detto meglio di no, che se no mi disturbano magari i posti che non è meglio che non ci siano, perché se ti trovo la ricevi a passata, ti avvisa, e poi se non riesci a staccarlo rimane attaccato. No, solo per quello c'ho, in caso che capito, che lo lasci distante, troppo distante, allora si buona su una. Solo quello ho messo l'avviso, gli altri non li ho messi. Capo, meglio, hai fatto bene, perché sono rotto di scatto. Perché purtroppo il cellulare di 2 anni, mi ha detto, infatti, ma sa quante ce n'è così che non prendono quell'applicazione, perché agitato, cambio telefono, che sto usando il lettore che mi hanno dato loro, che c'è una confezione. Ma è già comodo anche col lettore, non è che... Ma devi essere sicuro che il telefono che compri lo faccia, come fai a saperlo? Sì, ma infatti mi uso il lettore direttamente, tanto avevo in buccia il lettore, o il telefonino, sa già. Ma infatti, io ce l'ho, è nuovo dentro la scatola, il lettore, non l'ho usato, quello ti fa anche con i stick lo puoi leggere, vero? Sì. Inserisci la striscia, che strisce apposite sono, per l'appello ho chiamato stamattina, lo stesso infatti mi deve richiamare, questa qua, al numero verde, perché è tutto diverso dagli altri, non posso usare le altre, capito? Lo so, però me ne sono rimasti adesso per 14 giorni lo devo usare, no? Dopo che finite 14 giorni, questa era in prova, io gli devo dare una risposta, quindi meglio che abbia le strisce. Ma le strisce sue però, del lettore che ti hanno dato loro. Eia, c'ho le strisce su e c'ho anche quelle della macchinetta. Infatti mi ha detto, di strisce te ne danno poche perché comunque non ti servono, ti servono solo se per curiosità vuoi vedere se il risultato del lettore equivale a quello della striscia, basta, non serve solo in caso che non ti fidi che è del lettore, di quello che ti ha scritto, ti pungi e lo fai così. A me me l'ha spiegato, in caso di sbagli di temperatura non è giusto quello che segna. Diciamo che dove c'è molto freddo, molto caldo, infatti dice, se si va al mare bisogna stare sotto l'ombrellone, se no sballa tutto. Ci sono i pro e contro. E infatti, in acqua ci puoi andare tranquillamente, più di un quarto d'ora non ci puoi stare a muglio con l'acqua, però la doccia te la puoi fare tranquillo, io me l'ho fatta senza mettermi in protezione né nulla, non mi c'è stata. Beh, ma al limite si mette, e se lo vuole proteggere di più si mette un cerotto e rimane più protetto quando si fa la doccia o il bagno al mare. A me mi ha detto di avvolgerlo nel cookie trasparente. Anche vedi, no, buona idea anche quella. Il problema è che ho messo di fianco, ha detto ma scusi, non è meglio qua, perché un conto è che se te lo deve mettere una persona, un conto è se me lo devo mettere da solo, capito? E mi appoggia a un fianco, mira, lo vedi, sono io, perché sono lontano io, guarda, lo sento. No, non si sente. No, io ce l'ho dietro, perché sul tatuaggio non me lo potevano mettere. Me l'hanno messo dietro al braccio. Però ce l'ha presa come fare per metterselo. Non te l'ha fatta vedere. C'è il modo appunto di metterlo per non venirti male. Devi passare l'altro braccio sotto il tuo. E poi andare dietro. A me viene meglio. Perché invece quanto è grande quell'affare dove appunto fai tutto il coso. No, da sopra mi viene meglio col braccio destro perché me l'ha messo nel sinistro, capito? Col braccio destro. E io. Ah, ma poi la dottoressa proprio, perché l'infermiera gli ha detto, ma non è meglio che qua, perché sennò, cioè un conto è la persona che se lo deve mettere, un conto è che glielo metta un'altra persona. La dottoressa mi ha detto, sì, lo può mettere anche davanti, no? È lo stesso. Ma io preferisco che non si veda, preferisco che sia una cosa mia, buffa. Ehi, ma davanti? Allora, io non so dove ce l'hai tu, a me me l'ha messo nel fianco, ok, del braccio. E invece io gli ho detto, ma non si può mettere qua davanti, in modo che quando lo devo inserire mi venga bene a metterlo. Sì che lo metto un po' più su, in modo che con la maglietta non si vede, capito? A me me l'ha messo di fianco, ma sotto, capito? L'importante è che non ve lo mettano dietro, più su, dai, lì però. L'importante è che non ve lo mettano dietro. Quello già fatto. Quello lo lasciamo a te. Beh, buonasera a tutti, sono passato per un saluto che tanto devo di nuovo uscire, siccome non c'è caldo oggi, ciu. Un saluto a tutti, non so nemmeno che sia, ho appena acceso. Ad abbronzarti, siamo io, Natalino e Luca. No, diciamo mamma in ospedale a fare la revisione e quindi eravamo indaffarati in tutt'altre cose, già altro che mare. Cavolo, è ricoverato? Sì, ma la dimettono adesso. Devo fare il tagliandomi, un po' ho avuto un calo di pressione per altri motivi che non siamo riusciti a accertare. E per il resto lì sta bene, capito? Le hanno fatto un po' di quella cura per quella pancia, per quella cosa cronica, la pancia, non è tipo i verticoli, è un'altra cosa, non mi ricordo, un nome un po' strano. È tutto qui, dai. E quindi rinnovo i saluti e ci sentiamo in mille occasioni. Il tagliando, dai, è fatto. Andava Marco, ogni tanto bisogna fare il tagliando. Sì, tagliando, revisione, come vuoi, siamo lì, dai. Ok, ciao Luca, Natalino, riprendi Luca. Ciao Marco. Ehi, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? È caldo, cioè io non ho sceso il coso dal soffitto. C'ho un rinfrescatore di quelli che puoi mettere l'acqua fredda col ghiaccio anche. Cazzo, è una figata qua. Però è un macello. mantello, perché di stare attento appunto alle sbassi temperature. E Luca, io il raffrescatore d'aria l'avrei voluto provare, perché ti spiego, il climatizzatore portatile mi ammazza, è troppo forte, avrei voluto una cosa più blanda, però quanto ho capito devi stare ogni due ore a cambiare i polaretti perché si scaldano, a raboccare l'acqua perché alla fine l'acqua la consuma, non lo so se mi conviene. Ma guarda, io c'ho da l'anno scorso, mi trovo lo riempio d'acqua prima che su consumi, ti dura giorni l'acqua, Marco. E poi se vuoi aria più fredda, perché comunque l'aria la fa fresca, non è che la fa, però se la vuoi ancora più fredda, passaci dentro due bottigliette, no, i cosi dei ghiaccioli, no, le bottigliette, quelle piccole, fatte a ghiaccio, quelle durano molto. Sì, anche. Quello che mi preoccupava è che praticamente ti riempi di umidità la camera, capito? Perché quell'acqua bene o male te la trasmette nell'aria, e allora bisogna aggiungere anche un piccolo, come si dice, deumidificatore, anche chimico va bene, capito? Quello che si beve l'acqua dell'ambiente, l'umidità ambiente, perché se è troppo poi fa male. Va bene, signori, devo andare, dai, ciao a tutti, ciao. Vai Gianni. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. E io, ciao anche Natalino, ciao a tutti, ciao. Aspetti, mando la foto, Marco. Rispendi già. E io. Cava, dai. Andà bene. Ma stai finto. Ecco che ripeto che non ripote nessuno. E beh, tutti andati bene siete. E beh, c'è andato qualcuno. Luca. Gianni. Ehi Natali, ti ho chiamato poco fa, non mi ha risposto, cazzo. Luca stava mandando non so che cosa e quindi ero laggiù. Perché è venuto il mio vicino che mi ha fatto la spesa, che io ho un piede gonfio, mamma mia, è un macello là. E come mai c'è questo piede gonfio? Col caldo deve essere, mi si è gonfiato. C'è la circolazione, Natali, fatti vedere subito. C'ho la medicina, adesso mi ho preso la medicina oggi. Mi ha già visto la dottoressa. Va bene allora. Io domani devo andare a Porto Torres a farmi una visita a fundus oculo. Mica. Mi l'ha ridata ai kiwi, mi ha detto guarda se gli va bene questo mese a Porto Torres, se no a 10, sì vai due a 10. Un macello, è un macello per quanto riguarda queste visite. Ti mandano, meno male ti è capitato a Porto Torres, è già vicino, dai. Sì, quello sì. Però io dico, cazzo, venivano dai paesi a Sassari, a voce mandandino nei paesi, non ne comprendo più nulla io. Perché non ci sono posti, medici, ce ne sono pochi, ed è un macello. Adesso questo medico qua che è di fronte a me, il mio vicino, sta facendo orari massacranti, usando di massacranti. Gianni! Ehi, avvaditore, buonasera! Buonasera! Io l'ho trovato qua in via Tempio invece, l'oculista, il 5 luglio alle 8. Sì, ma io lo faccio domani. Io me lo tolgo da me, tanto c'ho solo quella visita, poi devo portare l'esame del sangue e delle urine, e boh, basta. E ho finito, capito. Ma io ce l'avevo a ottobre, mi ce l'avevo, 10 ottobre ce l'avevo. Questi qua di qua mi hanno trovato, venerdì mi hanno trovato in via Tempio, il 5 luglio. Siamo sopravvedura che abbiamo parlato insieme. Ho detto questo è il Porto Torres, l'ho sentito nominare, invece questo di Tempio, di via Tempio, me l'hanno proposto, ma non ci sono andato io. No, questa è una dottoressa, è molto brava questa. Questa è dottoressa. Che mi aveva fatto ce l'ho avuto già un'altra volta con quella lì. Come si chiama? Non me la metto, devo abbaidare un buglio, devo abbaidare. Ci sono già stato io da lì. Mi ha fatto anche le fotografie dell'occhio. La sala Peralta. Bionda, Marina Peralta. forse è lì. Ci sono già stato io da lì l'anno scorso. La prima volta l'ho fatta a Porto Torrice, poi sono sceso un'altra volta, mi ha fatto agitare due iuri a ricevermi. E poi sono come qua, poi sono andato da lì. Adesso sono tornato lì alla finale. Beh, domani c'è un orario balolo, deve essere alle 8 a Porto Torres, capito? Alle 8 devo entrare, perché mi mettono la truppina e poi mi fanno la bici. Io non ce l'ho alle 8 lo stesso. C'ho alle 8, mi do capire a me. Godrà a risette un quarto. A chi tardi? No, io prendo la macchina. No, non mi fido, no. A chi la saluta, se che andate in macchina, se mi tocca da gettare, mi passava più di un'ora che mi passava, non ci vedevo bene. Ti devi praticamente mettere gli occhiali da sole. Non ce li ho gli occhiali, se fanno scuri si fanno. Ce li ho da vista che si fanno scuri. E non ci vedevo lo stesso, non ci vedevo. No, a me mi accompagnano per la verità, però l'altra volta a Sassari dal policlinico a casa mi ho messo gli occhiali, i miei sono molto scuri quelli che ho e quindi non passava troppa luce, capito? Infatti, forse prima mi biglio l'udra, poi quando esce piano piano mi biglio l'udra farà. Ma infatti, conviene fare così. E che cosa è? Ciao Natali! Ciao Tore! E allora, la gente dice che va anche a gonfia. Fini mi mira. Capitelli. Io ce l'ho avuto, il piede gonfio ce l'ho avuto. La di Gandaleri ce l'avevo, anzi due giorni prima era giù fatta con la moto. E va via, no, lo vedi gonfio, va via. Adesso che ci sono matessi. E come ti va? È caduto in moto. Ero caduta in moto, mi si è rovesciata la moto sul piede e sono andata in infortunio. Però l'ospedale mi doveva ricevere dopo Ferragosto, mi doveva ricevere. Quindi piano piano me l'ha giù detto così. Tappa gappa. Vabbè. Quindi sono cose che succedono, anche io sono caduto l'altro giorno, sono andato a Riputi a vedere Tardella, stavo andando a prendere la macchina che era parcheggiata un po' più su, non tanto, c'erano 100 metri più su era. E c'era questa aiuola dove c'era praticamente, invece le radici l'hanno gonfiata. Ho inciampato lì, ho fatto la strada e ci sono uscito come tu sarà. Sei andato bene, la cosa ti sei gonfiato, non vedi? No, non mi sono fatto nulla, grazie a Dio, ho graffiato un po' il gomito e il polso come l'ho appoggiato a terra per salvarmi la faccia, perché sono caduto proprio a faccia a terra e per salvarmi la faccia ho messo la mano, no? E mi sono slogato un po' il polso, quel giorno dopo non c'avevo più dolore. Eia. Certo, andiamo bene, andiamo, meglio così che non ti sei fatto nulla, le graffiti già passano piano piano, e così è. E l'altra volta che avevo un coglio di pasticceria già mi sono fatto male, secondo me mi sono fratturato qualche cosa, qualche costola, perché sono stato un mese che mi faceva male, non mi potevo girare nel letto, niente, come ho sbattuto al marmo dove si paga, no? C'era il marmo, cazzo, ho sbattuto lì, l'ho anche spostato, fatti un gol. Andiamo bene, andiamo, purtroppo umani siamo. Ecco, per il vediamo un bel. Quella era la punizione, perché stavo mangiando un cannoncino, stavo mangiando. Pensa un poco. Un cannoncino. Cioè cannoncione, perché lì li fanno un bel grandi dove vado io. La protollella li fanno un bel grandi. Oh, certo, via da te. fa più che anche ci dà spinesia così. Poco di fa. È come te li drogati. Cazzo, passavate la pasticceria e non li puoi fare una visita. Burbu, andiamo e andiamo. Allora, comunque, nelle parte a mio nipote che è compleanno ed era invitato a pranzo e come sorpresa gli ho voluto prendere le paste. E quindi c'era praticamente un cannoncino che era rimasto da solo. E ho detto, il poverino che non gli dà solo, me lo dia che me lo mangio subito, e si è messo a ridere. Andiamo e andiamo, Burbu. Giulia, ma era che c'è via da voi. Quando faccio queste cose non le misuro, se no mi spavento. Poi il giorno dopo ricomincio da capo, ma adesso c'ho la macchinetta attaccata, c'ho il sensore, e la tengo sempre sotto controllo. In questo periodo non ce l'ho mai alta, 85, 90, 102, 106, però alta no. Meglio così, se è coso. Nel senso che l'hai comprato oppure te l'hanno dato? No, me l'hanno dato al centro di ambiti. Oh, ma l'hai chiesto tu? Me l'ha proposto lui, mi ha detto se mi poteva interessare, ho detto facciamo una cosa, lo mettiamo, lo tengo in prova, se poi mi va bene glielo faccio sapere e mi fa il piano terapeutico per questo qui. E mi detto vabbè, facciamo così. Me l'hanno messo e adesso gli devo dare la risposta. Deve passare 14 giorni perché ogni 14 giorni si cambia, capito? Ah, l'affare che c'è nel braccio. Sì, quello lì. Si cambia ogni 14 giorni. Cosa ottieni? Con il telefono? Sì, ma c'è anche il lettore, capito? C'è un lettore a parte che funziona come cellulare, si mette a caricare e questo lettore te lo metti in tasca e spari e ti dà la glicemia. Ma una volta che c'è il telefono c'è bisogno di portare il lettore, lo se ti scarichi l'app. Gira, il vostro abbrufurta a Romeo a ottobre. Ma lo sai quanto è comodo, ti puoi fare anche la doccia, non si stacca, è molto comodo. Diciamo che io pensavo che girandoti nel letto dava fastidio, fatti il bagno, invece no. No, è come se non ce l'avessi, credimi. Infatti, è quello che sto pensando anch'io. Dirlo al mio medico se si può avere, invece di stare con tutti i punturi che non risiedi assai nelle dita. Che poi c'è una cosa, non ne puoi fare più di tappe, con questo puoi prendere la misurazione quando vuoi, prima, dopo i pasti, durante la giornata, non lo devi lasciare scoperto più di 8 ore. Prima che scadano le 8 ore da una misurazione all'altra devi farla, se no poi non va più bene. Oh, io ci sono scritte tutte le cose nel manuale, fermo così. Adesso ne propongo al mio medico a vedere cosa mi dici. No, ti istruisce l'infermiera professionale, ma non io non l'ho mai pubblicato, a me mi ha detto tutto l'infermiera professionale, come devo fare, come lo devo mettere, devo seguire una linea che c'è, quando lo incassi devi seguire questa linea, lo incassi, spingi in un punto, in un posto duro, su un tavolo, spingi, una volta che spingi lo stacchi, lo metti nel braccio e poi rispingi e ti si attacca la faccia. È tutto comodo, c'è tutto comodo, adesso ne parlo con il mio medico a vedere cosa mi dici, se si bu. Beh, tu insulina fai? No, non ne faccio insulina io, ho le pastiglie. Non penso che te lo diano allora, perché quando se devi fare insulina non te ne danno. Quello lì lo danno. Poi c'è anche un'altra cosa, c'è il dosatore, quello lì ti dosa l'insulina, te lo attacchi, però quello è ingombrante. Te lo attacchi, c'è il marito di una mia collega, della mia ex collega, e c'ha questo dosatore, in base a quello che ama gli dirà l'insulina, te la tiene sempre costante la glicemia. Oh, che mi ha dato la macchinetta, mi ha dato, e ne si occupa due alla settimana le sto facendo. Quindi questo giovedì mi tocca a Bambino a Manzano prima di pranzo. Prima di colazione e prima di pranzo. E perché va a tassarsi? Un giorno devi prendere prima, un giorno dopo, capito? Ah no, queste due volte alla settimana, anzi, la mattina è prima di pranzo, due volte, sono 6, 2, 4, 6, 8 che devo fare al mese. L'insulina? No, i cose delle, con le controlli con le con la macchinetta. Ah, le misurazioni, sì. No, io ne faccio 4 di insulina, anche la notte. No, io insulina non ne prendo, prendo le pastiglie perché ha detto, dice, me lo segna nel libretto, poi a ottobre me lo porta, vediamo a vedere se gli devo cambiare le pastiglie. All'inizio anch'io ero così, anch'io prendevo solo pastiglie all'inizio, poi non ce l'ho fatta, solo con le pastiglie mi ha dato l'insulina. No, ma lui mi dice che ogni volta che ando gli porto il coso 142, ogni volta così mi ce l'ho, non ce l'ho alta, ogni volta ce l'ho a 142, 145, ogni volta che mi faccio gli esami, ecco cos'è, e mi dice che è alta. Alta sì, perché deve essere massimo 100, se tu ce l'hai più alta di 100 è già alta. Naturalmente se ce l'hai dopo i 200 sei in pericolo. Che cazzo, boh, ogni volta l'ho fatta malavista un'altra dottoressa e mi ha detto, dice, ma guarda cos'alta, lo lasci cantare che non è alta così. Alta è quando supera i 200, mi dici. Ma quando supera i 200 sei già da ricovero, perché ti può succedere qualsiasi cosa, ti rovina gli organi. Naturalmente c'è un grafico che bisogna rispettare, lo stavo dicendo a Luca, questo grafico deve essere sempre lineare, al contrario di quello dell'elettrocardiogramma, che se è lineare si muscio, questo qui deve essere lineare praticamente per far sì che la glicemia sia sempre regolata al punto giusto, che combaci una con l'altra, capito? Se fa il grafico, se sale e scende, vuol dire che la glicemia è salita, è scesa, eccetera, e non deve essere così. A volte la mattina mi scende a 80, mi scende a 87. L'altro giorno quando ho misurato anche da passata a 112 ce l'avevo. A me mi scende dopo le 11 e mezza, mi scende un bel. Così fa a me, dopo le 11 e mezza e mi mangio un pacchetto di crepe. Dopo le 11 e mezza mi scende. Sta a 80, 87. 90, no, mai di coso, infatti glielo ho detto io a lui, al dottore che mi scendeva così, e lui mi ha detto mangi un pacchetto di qualche cosa, un pezzo di pane, e infatti è così sto facendo. A me anche 65 mi ha dato, questo qui è ipoglicemia ed è pericolosa, più dell'iperglicemia, l'ipoglicemia è più pericolosa dell'iperglicemia. Eppure mangio qualcosa, ma da bui non lo so, devi mangiare qualcosa che subito ti dia gli zuccheri, tipo una caramella, un frutto, tipo una pesca, che ti dia subito lo zucchero. I cracker sono salati, non è difficile dire chissà cosa, ma sono carboidrati, ma li assimili piano piano. Invece se tu prendi un frutto, c'è il fruttosio che assimili da subito. Lui mi ha detto di non mangiarne frutta la mattina, mangiarla se o no la sera, di mangiarmi la sera verso le 5, ma dici, una pesca, un pezzo di banana, ma dici, non lo sentiria, un pezzo, un arancio, un co... E oggi tu hai a me, hai tu mangio che c'è il burgio. Luca, avanti, Catalino. Eia. Alle 11:30 c'è il calo degli zuccheri, scende a tutti. Eia, già lo so. E fatto sta che bisogna stare ben attenti a questi sbalzi, me l'ha spiegato, detto che gli sbalzi, a ceffara, rovinano gli organi, capito? Sì, lo so. Beh, tu devi tenerlo, questo grafico lo deve tenere dritto, come quando uno muore, cazzo, che ti fanno l'elettrocardiogramma, ce l'ha piatto, le muscoli, deve uscire uno su. Sì, che non c'è molto per il piatto, certo, secondo un capodetti. Ma qua si tratta di glicemia, un'altra cosa, quindi deve essere piatto, non deve... Il grafico non deve né salire né scendere, perché se sale e scende vuol dire che la glicemia o è bassa o è alta. E gliel'ho detto io, che a me mi scende e poi mi sale. Non ci posso fare nulla, non ci riesco io a tenerla ferma, no? Quella lì è ballerina, come ce l'ho io. Certo. Vabbè, come gira, mi mongo un disco e mi canto la canzone. Quando è così è più pericoloso che avere la fissa, capito? Quando è così, questi alti e bassi non fanno bene agli organi. Lo so, purtroppo. Cosa vuoi di più a 70 anni? A me se mi ricavano la frutta, mi ricavano un pezzo di guri, perché io la frutta la mangio, l'ho sempre mangiata un bel, in grosse quantità. Le arance soprattutto, a casa di mamma, mamma le comprava da quel milese che passava col camion, le pigliava così, così ghiri, da bui passava la ghida da bui. In una settimana ci bastavano giuste e giuste i 6 kg, perché poi ne regalava pure, ne pigliava 4 e ne regalava 3 kg, chi se non si puliva problemi, c'era il giardino. Dillo a me che mi piace un bel, a me la brutta, altro che io se potete dire che ne mangio, se mi ha ciappato anzi, me ne mangio un bel, me ne mangio, però... Ci sto cercando di resistere e mangiarmi la soltanto qualcuno a pranzo e di pomeriggio. Sto facendo una e una. E una la devi mangiare. Io non ce la faccio a mangiare una, io dico la verità, due me le mangio sempre. Perché specialmente col caldo, mangiate una pesca ben succiusa, ui. Così fosse io, cerco di resistere e me ne mangio una di pesca, poi la sera me ne mangio un'altra, la notte non ne do più. Queste che ho comprato oggi fanno schifo, non pagate più i 3 euro al chilo e fanno schifo. No, sai dove le ho prese dolci io, la frutta e verdura dietro la Conad, anche se erano 2 chili, 4 euro. Ho preso 2 chili, ma finiranno bene, era dozzi dozzi. Oh, signor Natalino. Uia. Soggi noghe. E io ruso che c'è in chivi. Cazzo. Sento che c'è il dolore. Ecco cos'è, aspetta il telefono. Ma che dolore. Oh, io. Ragazzi, devo lasciarvi, devo uscire a prendere la signora. Ci risentiamo quando ritorno. Ok, a dopo, se ci siete. E ciao, Tore, ciao. Buona questa greca. Ciao, Tore, ci sentiamo, là. Buona passeggiata. A non stirti al sole. Ah. No, già devo andare in macchina, non ti preoccupare. Ok, ci sentiamo dopo. Vabbè, dai, io me la chiudo adesso. Ciao, già, ci sentiamo che...